porta la sete di sapere. Io ti porto i calici, porto il cuore in catene. Sei ancora lì che abiti tu, porta la miccia, tanto siamo già carichi. Due cuori rotti fanno uno buono, siamo impavidi, entrambi fragili. Se busso forte aprimi, abbracciami come se tutto questo non ricapiti. Tutte le vie portano a te come Roma senza recapiti. Fai cominciare i giochi sadici, spegniamo i cellulari, fumiamo come afghani, versa il Molinari, ci chiudiamo come origami, bruciamo i nostri altari, loro, l'oro, i piani, l'addio dei sicari, io ti guardo mentre spari, butta giù l'amaro in due shot, uno per tuo padre, due per le cicatrici, quel poco che so, riversi su di me i tuoi shock, io la falena e tu la fiamma, sono attratta, questo è il dramma. Brucia, bruciami ancora, solo come tu sai e non voltare. Porta i sogni infranti, io porto quelli rimasti, così giovani e guasti, siamo gli iconoclasti. Questo è il nostro party, quello per commiserarci. Io affondo nei tuoi nuovi vecchi abbracci, spingi i miei tasti. Una dolce melodia, così triste ed agrodolce da commuovere la tua apatia. Sai amarmi ma non volermi bene, sei una dolce bugia, quella più stronza che ci sia. Ci avviciniamo a un vulcano e perdiamo la testa, poi ci lasciamo, affoghiamo nel nulla che resta. Qualcuno spieghi che razza di vita e questa se non so stare con te ma non so stare senza. Fiducia è la parola più grande del dizionario, tu sei un libro aperto, io sono il tuo diario. Io la falena e tu la fiamma, ombre cinesi nella stanza, non sappiamo dire basta. Brucia, bruciami ancora, solo come tu sai e non voltarti, come tutti gli altri. Brucia, mi hai già nelle mani, bruciami le ali, puoi consolarmi, sei tu a salvarmi. Apri queste ferite così puoi consolarmi. Siamo soli in compagnia dei nostri drammi. Nessuno può giudicarci. Brucia, bruciami ancora, solo come tu sai e non voltarti, come tutti gli altri. Nelle mani, bruciami le ali, puoi consolarmi.